Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune brevi informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro sito, che è radio24.it. Lo conoscete bene, sapete che è stato rinnovato e possibile ascoltare in tempo pressoché reale tutte le puntate. È possibile scaricarle via podcast, ascoltarle con calma dunque, ed è possibile dialogare con chi ha un blog, il mio lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri e lo trovate anche sull'home page del Sole 24 Ore. La seconda informazione di servizio riguarda invece la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Alcune settimane fa siamo stati raggiunti da una mail di un nostro radioascoltatore di Porto Santo Stefano, quindi ci troviamo in provincia di Grosseto, che faceva presente un proprio caso personale che adesso affronteremo, ma in realtà questa sua esperienza riguarda una platea molto più vasta, vale a dire coloro i quali sono stati vittime di incidenti della strada, quindi parliamo, ahimè, di centinaia di migliaia di persone. Ho la sensazione, ma poi la approfondiremo con i nostri ospiti, che sia anche in aumento il fenomeno. Ragione per la quale ho deciso di dedicare due puntate a questo tema, partendo proprio dal racconto del nostro ascoltatore Raimondo Rondelli. Buongiorno Rondelli. Buongiorno a lei. Rondelli che sarà si confronterà con chi? Con il dottor Maurizio Cesare Gemelli, che è responsabile dell'ufficio Fondo di Garanzie delle Vittime della Strada di Fondiaria SAI, e poi scopriremo perché chiamiamo in causa Fondiaria SAI. Buongiorno Gemelli. Buongiorno a voi, buongiorno a signor Rondelli, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, come sempre, le puntate della mia trasmissione servono per costruire, mai per distruggere, per dialogare e imparare tutti qualcosa in più e sapere come comportarsi. Il re degli ignoranti, come dico spesso io, è il giornalista, quindi per me ogni occasione è un'occasione di arricchimento umano e professionale. Allora, Rondelli, racconti la sua storia di vittima della strada. Allora, io a luglio del 2009 ho subito un incidente con danni fisici e la macchina che ha procurato il danno si è allontanata senza fermarsi. Ci sono venuti i vigili urbani, l'ambulanza, è stato fatto un verbale di accertamento del danno, ma la persona se n'era andata. Quindi non c'era, in pratica non è stato riconosciuto, non è stato possibile identificare chi le ha provocato questo danno. Esatto. Attraverso conoscenze sono venuto a sapere che esisteva un fondo a garanzia vittime della strada a cui rivolgersi, che risarcisce i danni causati dai veicoli non identificati. Allora sono attivato, sono andato su internet, ho scaricato il modulo, ho inviato lo stampato e a ottobre più o meno ho ricevuto una comunicazione dove si diceva che era stato aperto il sinistro e mi si chiedeva un'integrazione di documenti. Benissimo, lei a chi ha spedito questo modulo? All'ente gestore, che è Fondiaria SAI. Benissimo. Della Toscana, esatto. Ed è per questo che abbiamo chiamato a dialogare con noi Fondiaria SAI. Quindi chi lo gestisce in Toscana è Fondiaria SAI. A questo punto lei però fa delle scoperte che direi sono abbastanza sgradevoli. Sì, nel senso che ho mandato la documentazione che dovrebbe essere arrivata intorno a metà novembre, ma da quel momento non ho avuto più notizie di nessun genere, cioè anche se telefonavo, se mandavo fax, non avevo risposte di nessun tipo e non sapevo neanche, fino a poco tempo fa, se ero titolare di un diritto, cioè se era, la mia situazione era considerata tale da poter essere riconosciuta come un infortunio da risarcire. Certamente, ma lei fa presente anche un'altra cosa, secondo me molto interessante, cioè lei dice che le sembra di scoprire dalla denuncia del modulo e comunque dalle informazioni che lei acquisisce che il costo dell'avvocato, del legale, è a carico del denunciante, sì, cioè sì, a carico, esatto, suo. Ho avuto due o tre risposte diverse, poi mi sembra addirittura che su regioni diverse, perché un parente che agisce nel Lazio e che fa questo tipo di attività, che mi aveva dato una risposta diversa, dove si diceva che il legale era a carico dell'ente gestore. Ecco, in questo caso Fondiaria SAE, appunto. Allora, io direi di spacchettare, diciamo così, gli interventi e le critiche in due momenti. Il primo è quello del confronto, in questo caso, con l'ente gestore per la Toscana, che pare non dare troppi frutti. C'è un dialogo che cade, o forse non si instaura proprio. Si spedisce il modulo, ma poi si vorrebbe sapere qualcosa, a partire dal diritto, se si ha o meno, ma il dialogo non parte proprio. Il secondo è quello che credo sia altrettanto vitale, vale a dire il costo del legale a carico di chi è. Allora, noi per fare chiarezza, come dicevo, abbiamo chiamato Maurizio Cesare Gemelli, che è proprio responsabile di questo ufficio di garanzia delle vittime della strada per la Toscana. Allora, Gemelli, a lei le risposte di questi due momenti che abbiamo identificato. Inizialmente parliamo della problematica personale del signor Rondelli e in realtà la ricostruzione dei fatti di signor Rondelli è assolutamente corretta e infatti purtroppo a causa di disguidi interni che purtroppo si sono accavallati anche con problemi informatici non siamo riusciti a rispondere alle istanze del signor Rondelli non solo secondo i rigorosi standard di qualità che ci impone la Consap, che è la concessionaria che decide e governa il fondo di garanzia a livello nazionale, certo, e che impone degli standard di qualità alle imprese designate, ma è quello che ci rammarica di più, soprattutto non siamo riusciti a dare quella tempestività che di solito contraddistingue l'ufficio fondo di Fondiaria SAI, che nel 2009 ha ricevuto solo 34 reclami su 44.000 posizioni in gestione. Ecco, quindi insomma voglio dire, potevate fare di più. Assolutamente sì, e anche quelle 34 sono naturalmente alla nostra attenzione, perché dobbiamo cercare di arrivare al break even zero, perché anche certo, il insomma, singolo danneggiato certo vede solo la sua pratica ed è giusto che sia così. Benissimo. Complessivamente noi liquidiamo circa 75 milioni di indennizzi l'anno, di euro, quindi non certo sono pochi. Certo. Invece venendo ad un aspetto che secondo me è molto molto importante, cioè l'individuazione del costo dell'avvocato, è a carico di chi, dottor Gemelli? Del fondo di garanzia. Cioè noi paghiamo tutti gli interventi legali che diciamo patrocinano il danneggiato, sono a carico del fondo e vengono rimborsati insieme alla liquidazione al danneggiato o, se l'avvocato e il danneggiato sono d'accordo, separatamente. Quindi il danneggiato non subisce costi aggiuntivi assolutamente. Ecco, questo in tutte le regioni d'Italia. Ecco, ma come mai allora c'è questa scarsa informazione? Cioè, come può aiutarci ad avere un'informazione maggiore? Ad esempio, voi avete un ufficio, un numero verde, un sito a cui indirizzare chi in questo momento vi sta ascoltando in Toscana, e poi mi dica lei se avete in gestione altre regioni. Allora, come gruppo Fondiaria SAI abbiamo in gestione 7 realtà territoriali, che sono il Trentino Alto Adige, la Toscana, l'Emilia Romagna, la Repubblica di San Marino, l'Abruzzo, il Molise e la Sicilia. Bene. Per quanto riguarda informazioni generali su come comportarsi, su chi, su quali moduli utilizzare oppure a dove indirizzare le richieste danni, sul nostro sito di fondiariasai.it c'è un'area riservata al fondo di garanzia. Bene. Dove ci sono tutte le informazioni, altrimenti ci si può collegare sempre via internet al sito della Consap.it, certo, certo, dove lì addirittura ci sono tutte le imprese designate d'Italia, per cui uno territorialmente può capire qual è l'impresa designata corretta. Ecco, a cui inviare le richieste danni. Gemelli, volevo chiedere un'altra cosa. Ci sono dei tempi da rispettare nel contattarvi, voi e tutti gli altri gestori, nello spedire la documentazione, nel liquidare anche il danno ricevuto? Allora, il codice della strada, il codice delle assicurazioni non prevede delle tempistiche a carico del danneggiato, per cui è sufficiente che spedisca una raccomandata a noi e alla Consap via ISER 14 Roma, in cui richiede il risarcimento. Dopodiché non è come nell'indennizzo diretto, che vi sono dei tempi da rispettare anche da parte del danneggiato o delle compagnie, per cui è sufficiente quella richiesta danni per attivare la procedura. Non risulta al codice delle assicurazioni una tempistica delle imprese designate, che invece sussiste nell'ambito delle convenzioni che ci sono tra noi e il Ministero, per cui noi abbiamo dei tempi a cui dobbiamo sottostare, dobbiamo rispondere entro 45 giorni dalla richiesta danni per dire se è risarcibile o meno, se è legittimato il fondo a intervenire, poi abbiamo 90 giorni per una proposta liquidativa dall'ultimo atto utile per l'istruzione della pratica e 30 giorni per liquidare dopo questo. Insomma, una tempistica c'è. Ci sono anche delle sanzioni. Esatto. Avevo letto che il signor Rondelli si domandava se eravamo sanzionati o meno in caso di inefficienza. Esistono sanzioni economiche. Comunque io questo non l'ho toccato, non l'ho sfiorato questo aspetto, perché comunque sia magicamente, uso un po' di ironia, dopo che è stato contattato Radio 24 questa trasmissione, anche Rondelli è stato contattato da Fondiaria SAI. Io ringrazio i nostri ospiti, Rondelli e Gemelli. A domani mattina per una nuova puntata. Lasciatemi il tempo di ringraziare in regia Fabio Cantadori e in studio Elisabetta Fusconi. Buona giornata.